tardi è scoppiato un caso. Non ho detto a mia madre del mio dolore al petto, che non brucia ma fa male, perché ormai è aperto, perché ormai è aperto. Venerdì è scoppiato un caso, non ho voluto il pane per il dolore al petto, che non riposa perché fa male aperto, fa male aperto. 100 medicine per levare il male, occhi nei cuscini per riposare il male. È scoppiato un caso, non ho cercato l'acqua per il dolore al petto, adesso sanguina perché è ancora aperto, è ancora aperto. Venerdì è scoppiato un caso, non ho detto a mia madre del mio dolore al petto, che non brucia ma fa male, perché ormai è aperto. 100 medicine per amare il male, le braccia sui cuscini per